sei Fabio Master. Sì, che bella gente che c'è qua. Non venisci uno ancora. Oia. Io sono tornato dalla spesuccia qui vicino. E dopo mi metto a cucinare qualcosa. Oggi hamburger e patatine. Voglio far finta di essere dal McDonald's. Praticamente a chilometri zero. Ah, poi l'hamburger, vabbè, l'hamburger è fatto dal macellaio, quindi presumo sia leggermente più sano di quello del Mac. Presumere non vuol dire averne la certezza. Secondo me, se vai a caso, fai prima. Ehi, anche perché il macellaio, anche se mette conservanti, mica te lo va a dire, no? Come chiedere all'oste se il vino è buono? E lui ti dirà che è buonissimo, che è sano, è più buono di tutti gli altri. Chiappa, chiappa. Infatti, non bisogna mai fare i conti senza lo stesso, come in aereo uguale. Come l'aereo, anche in aereo c'è l'oste. Ah, c'è la hostess, che adesso manco le puoi chiamare hostess. Com'è che le devi chiamare adesso? Siamo in un mondo ipocrita dove non puoi chiamare le persone come le chiamavi prima. Com'è che le chiamano? Non dico sempre quella là. Mi pare assistente di volo. Fa un po' i negri, prima negri, poi di colore, neri, poi di colore, abbasso diversamente bianchi. Visto che non intendevo, sono diversamente bianchi, non sono i miei, né gialli, né il signore lì alla mia destra, non puoi dargli mica un identificativo, animaccia mia. Non puoi identificare, perché mentre stai identificando stai discriminando. E allora, ecco, proprio lei, sì, lei che mi sta guardando. E tante altre cose, a parte gli scherzi, vabbè, le hostess, assistenti di volo, come se hostess fosse dispregiativo, boh. Vabbè. È come dire le puttane, adesso le chiami assistenti sociali, no? No, si chiamano escort. Ai tempi miei la escort era un'altra cosa, con una escort 1600 GLD ci hanno imparato a guidare tutti gli amici della mia greffa, e infatti poi l'abbiamo rottamata. Ma escort è già dispregiativo, oppure puoi chiamare assistenti sociosanitarie. Assistenza alla morale pubblica. Buona la morale pubblica, per carità. Bene, chi altri c'è all'ascolto? Qualcuno si è già svegliato? La vedo dura, però secondo me gente con ricevitore ce n'è, così, magari pure che c'è un T-Rex. Sai che esisteva anche un baracchino solo ricevente della Intec? Intec aveva fatto sto baracchino, si chiama CBM450, praticamente è un ricevitore per la 27. So che volendosi attaccare, perché ho sentito già i discorsi, cioè le leggi nostre sono così, potremmo dire, ottuse, no? Tu puoi ascoltare i radioamatori, no? Puoi ascoltare le radio FM e le radio BCL, però non viene menzionata la 27, che tutto quello che è escluso da questo non si dovrebbe ascoltare, nemmeno la 27, però. Se sta scritto sulla carta che i radioamatori può ricevere, non potevano scrivere sulla carta che con l'apposito apparato potevi ricevere anche i CB, che sono tanto terra a terra, no? Ma guarda, hermano, la licenza è un poco fa. Quello che mi ha colpito è che è tutta la carta normale, no? Però in eretto c'è scritto che se non paghi la tassa di 12 euro all'amministrazione competente, praticamente stai rinunciando all'utilizzo dei suddetti apparati, cioè praticamente non gliene ha tutti nulla, cosa si vende, cosa non si vende. L'importante è che li paghi questi soldi, il resto è acqua. Ehi, però vabbè, mai si vedano, non, certo non piango 12 euro. Insomma, fatto sta che questo CB, questo ricevitore per la 27, lo chiamano anche il road tracker, no? Magari in tutta Europa te lo metti in macchina col suo antennino, ti danno anche l'antennino, è magnetico piccolo, non ti dicono niente, se qua trovi quello che si vuole attaccare, c'è, ma qua su carta leggo che puoi ascoltare BCL, radio FM e radio Antori, basta. E magari ti va a sentire perché c'è un ricevitore CB. Vabbè. Il paese è proprio strozzato dalla burocrazia. Stavo leggendo l'altro giorno quante leggi abbiamo o integrazioni di legge, no, nei vari paesi d'Europa, no? Che ne so, butto cose a caso, che ne so, in Inghilterra 3.000, in Francia 6.000, in Italia 160.000 leggi, cioè poi leggi che si contraddicono anche l'una con l'altra alle volte, è una cosa folle. Va bene, ce ne andiamo in Svizzera a abitare, eh? Potendosela permettere. Ma il discorso è molto semplice, torniamo sempre ai soldi. Se tu fai una legge e chiedi soldi per una legge e poi ne fai un'altra che contraddice quella, nel momento in cui stai facendo una cosa e stai facendo anche l'altra, che è sempre a norma di legge, in qualche modo c'è un non in mezzo, perciò tu stai andando o contro una o contro l'altra. Se non fai né una né l'altra, ne contraddici due, allora fai una e contraddici l'altra, fai anche l'altra e contraddici la prima, sei sempre fuori regola, fuori norma, e perciò cosa devi? Devi pagare, capito? Devi pagare, pure, lo so per farti pagare, in una maniera o nell'altra. Poi fatta la legge, trovata l'inganno, sì, ma se trovi quello pignolo ti trovo anche lo specchietto oltre la lampadina, e invece che guardi che lì ti danno quella targa sporca, ti sei fregato. Boh, siamo sempre lì, io conosco il codice della strada, il CDS lo conosco a menadito, e posso veramente rimanere ore e ore a parlare con un poliziotto, con un carabiniere, qualche volta è successo, mi fa di vedere che anche se ho la lampadina bruciata non mi può fare il verbale, ci vediamo dal giudice di pace, capito? Le targhe sporche, cioè, io mai ho mai avuto la targa sporca, ho visto targhe invisibili, lo sai, cioè che non solo non la leggevi a 50 metri, non la leggevi manco a 5 metri, proprio la vernice sparita della targa, o quello che è. Poi vabbè, io appena posso comunque cerco di essere sempre in regola. Quando si fulmina una lucina della freccia, una luce posteriore, una luce targa, subito la rimpiazzo per evitare polemiche, perché poi sai cos'è, vogliono avere ragione loro in caso di controlli. Cominciano, beh, allora cominciamo, questo volante non è abbastanza tondo, queste ruote non sono abbastanza, battistrada non c'è, e valgono il loro caso strano, valgono i loro strumenti di misura, quelli tuoi magari non valgono. Va bene, è meglio prevenire che reprimere. Allora guarda, la targa, te lo dico subito, la targa hai visto che si scolorisce perché lavi la macchina, il sole eccetera, è scolorita, in teoria tu cosa fai? Prendi un colore, scusa, bordato nero, bordo nero, ok, prendi e la rinfreschi, no? Io per esempio il puntino, soprattutto la targa anteriore, perché la targa anteriore è soggetta a vari viaggi, a pietruzze, insetti, eccetera, che lasciano acidi, quella quando va via magari un pochino, prendi un pennarello nero, quelli indelebili e i puntini li riprendi e così la targa torna intera. Però non è norma di legge, perché il materiale che hai usato non va bene. Dunque in teoria tu dovresti cambiare la targa, ma non puoi avere una copia della targa, perciò dovresti rimatricolare il veicolo con nuovo libretto, eccetera, eccetera. Per le lampadine invece, se tu possiedi una copia di tutte le lampadine che hai in macchina, nel momento in cui ti fermano e ti contestano la lampadina bruciata, lui, l'agente, ha l'obbligo di aiutare l'automobilista che ha dei problemi nella strada. Questa è una regola del CDS. Perciò se tu hai la lampadina in mano, ti puoi chiedere cordialmente di aiutarti a sostituire la lampadina, che in alcune macchine, tipo per esempio la Modus, vuol dire anche attaccare il paraurti. Secondo te un poliziotto in mezzo alla strada sta lì a cambiarti la lampadina, ti vede la lampadina in mano e gli dici questa cosa e ti dice va bene, vada, ma mi raccomando, vada ad onore dell'auto e se la faccia cambiare immediatamente, e tu il verbale te lo salti. Pensa a tu. Ah, non la sapevo questa cosa, addirittura sarebbe tenuto in teoria aiutarti a sostituirla, ma E dietro già c'ho, anzi forse più del necessario, di tutto ciò, luci, lampadine in targa, lampadine in fregge, stop, vabbè, gli abbaglianti anche, no? Mi pare siano H4, sono banali come lampadine. Insomma, un po' di tutto ciò, proprio per evitare luci anche, come si chiamano, quelle di posizione, le piccoline. Ma poi hai detto l'elettrauto, ma perché uno sarebbe tenuto a farsela cambiare solo dall'elettrauto o se la può cambiare lui? Allora, in teoria c'è un manuale di uso e manutenzione del veicolo, tu potresti utilizzare quel manuale per vedere dove la lampadina eccetera. In pratica tu non puoi toccare la macchina, queste sono le leggi che se ne vanno una contro l'altra. In pratica tu non ti puoi fare neanche un tagliando, perché sei responsabile di quello che stai facendo. Invece il responsabile dovrebbe essere un tecnico. In teoria tu non dovresti neanche aprire il cofano motore, perché nel momento in cui la macchina si accende una spia, tu non puoi toccare nulla, dovresti chiamare un carattrezzi, il carattrezzi lo porta al punto autorizzato, e lì il meccanico, se tu hai una spia accesa, ti sistema l'automobile, ti cancella la spia, ti mette a posto quello che dovresti fare, che dovrebbe essere messo a posto, perciò in teoria tu la macchina non potresti toccarla. Pensa un pochino, solo che vai tu, come fai? Cioè, per ogni cosa, anche per rifornire il liquido del lavavetri o per aggiungere un po' di antigelo, cosa devi fare? Non fa. Ecco, tu prima per la patente dovevi sapere partire il motore, dovevi essere in grado di cavartela anche con cose allucinanti, sapere il funzionamento del cambio, c'era tutta la teoria a parte del motore. Se vai a dare la patente adesso, non ti dicono nemmeno come cambiarti una lampadina, nulla. Cioè, c'è un motore che gira, che può essere di tanti tipi, alimentato in vari modi, e a cosa servono le spine nel quale? Finito. Perciò la macchina non si può toccare. Allucinante, guarda, allucinante. Io l'avevo presa nel 90, era anche molto bravo, era andato a scuola guida io, spiegava molto molto bene l'istruttore. Sì, infatti, figurati, devo raboccare mezzo litro d'olio o lo spruzzatore vetri, vado dall'elettrauto, così ti spenna. Infatti spenna, no? Ne abbiamo parlato ieri, chi c'era ieri? Claudio c'era, Massimiliano, Gianni, sì, si può pagare tutto, le lampadine a prezzo pieno, la manodopera giustamente. Quello che non capisco è perché molte ragazze, anzi quasi tutte le donne che guidano, quasi dico, non si sanno cambiare una ruota, non se la sanno cambiare, devono sempre chiedere aiuto a qualche passante. Cioè, non sanno usare il click, non sanno usare niente, sanno usare un altro click magari, ma non quello della macchina. Il discorso è che praticamente l'altro click se lo già lo sanno usare, cioè non c'è bisogno di istruzioni, no? Il discorso è che proprio non si può fare nulla in teoria, ma ci sono alcune macchine in cui è lì l'elettrauto ha ragione, una macchina in cui fare certe operazioni che banali è un po' complesso. Ricordo che sulla macchina di una mia amica per cambiare una abbagliante ho dovuto spostare la batteria e c'entravo piano piano pure, non con molto spazio. Ma il caso buono per tutti è la Modus, perché varie volte ho dato una mano al mio meccanico a cambiare lampade su una Modus, su qualche Modus dei suoi clienti, e in due, è ormai molto pratici, ci abbiamo messo quasi 2 ore. Caspita, è un po' seccante. Per esempio in quella che ho io di macchina, che poi di mamma, il faro destro è messo in una posizione così stronza che ho visto che in un video di YouTube hanno dovuto smontare un pezzo per cambiare la lampadina principale del faro. Io invece, avendo le dita sottili, sono riuscito a togliere la cuffia in gomma, a sfilare tutto, lampada e portalampada, sostituita lampadina, rimessa, richiuso quel gancetto che tiene in sede il tutto e rimesso la cuffia di gomma. Bene, dai, poi casomai ci sente dopo, adesso mi organizzo per mangiare qualcosa, vorrei mangiare prima anche. Poi entreranno altri, dai. Ciao Fabio, a dopo, buona serata. Ciao caro, buon proseguo. Anch'io me ne vado in pausa caffè con mamma, che abbiamo un appuntamento alle 5 di solito, oggi si è allungata, perché mamma è tornata a fare il caffè, capito? Gli do i compiti per fare qualcosa così, per muoversi, se no si annichilisce, deve fare, si deve muovere. E dunque per me 3 caffè. Andiamo più tardi, là. Tanto sicuramente qualcun altro ci sarà la frequenza. Buona pappa. A dopo. Ciao a chi sta ascoltando, chi è? Ciao Marco. No, volevo dire a Fabio, attrezzati l'antenna come si deve, perché qua non arrivi, si sente solo il bisbillo, il basta, non si capisce niente. E non sono in America, sono semplicemente 4 km da Sassari. A 40 km da Sassari, ho capito bene. Cioè, tu rispetto a lui sei 4 km da Sassari, o comunque vabbè, già hai capito il senso. Fabio, ma tu la zona, aspetta che non mi ricordo, grosso modo che zona sei? Allora, sole, ma fino a quando non arriva il foglio del condominio non posso spostare l'antenna, ce l'ho sulla finestra. Ah, sto aspettando il benestare del condominio, ho capito, il foglio, ma poi vabbè, il condominio non è che può bloccare niente. Anzi, non si è tenuto nemmeno a chiedere il permesso. Se vuoi avvisare, puoi avvisare, ma non chiedere il permesso. A meno che non stiate facendo lavori. Vabbè Fabio, dai, comunque sì, Giulio ti ascolta a basso. No, Giulio, qua Fabio è 995 anche. Qua arriva bene perché ancora siamo vicini. Dai, riprendi Giulio. Ok, ma se va qui non arriva. O meglio, arriva Santiago 2,5-3, però di radio non si capisce niente di quello che dice. Troppo basso la radio. Fabio, guarda che è l'errore più grande, mettetevi sempre bene in testa questo, che chiedere il permesso al condominio è l'errore più grande che possa fare un CB o un radioamatore che voglia installare un'antenna sul tetto. Siccome c'è il diritto assoluto per il montaggio dell'antenna su qualsiasi costruzione, su qualsiasi immobile, non hai assolutamente bisogno di chiedere il permesso al condominio, perché facendo così da quel preciso istante ti stai cacciando nei casini, nel senso che loro sono contrari sempre, per logica, sono sempre contrari perché hanno una visione strana dell'antenna del ricevitore. Per cui tu devi o dovevi, adesso ormai sarà per troppo tardi, tu dovevi prendere tutta l'attrezzatura che serve, salire sul tetto e installare l'antenna, senza bisogno di chiedere il permesso, perché nessuno te lo può negare. Ecco, tutto lì Fabio, io adesso non ti sento purtroppo per la risposta e mi dispiace. Oh, Giulio, non è che lo so. Sto alzando un po' la radio così magari ti arrivo meglio. Non è che ho chiesto permesso, semplicemente sto avvisando che sto installando l'antenna, ma questo perché? Perché ci sono altri discorsi in condominio e allora con tranquillità, per un senso di civiltà comune, per fare in modo insomma di apparire leali in qualche modo, mi è sembrato un gesto tranquillo. Io lo so che la posso mettere l'antenna quando voglio, ne installo a 30 anni di antenne nei condomini e ovunque. Ho girato per tanti anni con una sentenza in tasca del TAR del Lazio, perciò quando il vicino si avvicinava a rompere il scatto, toglievo il foglio e glielo sbattevo in faccia. Però per questione di realtà e per discorsi che abbiamo fatto in condominio, eccetera, perché abbiamo risolto altri problemi, allora semplicemente io ho avvisato che sto facendo questa installazione, che nessuno me la può negare, io prendo comunque e la faccio, sto solo avvisando, cordialmente. E forse non mi sono neanche arrivato. Va bene, dai, comunque comunico il mio coverti. Fa una mezz'oretta, un'oretta, magari ci sentiamo in frequenza. Marco, ci sei? Fammi da ponte. Beh, vabbè, pazienza Fabio, non, tu arrivi, Santiago 3, anche scarso qua, il QRM, Santiago 4 e ti supera, non capisco quello che dici, vabbè pazienza, dai, quando ti attrezzerai bene faremo delle lunghe chiacchierate. Ok, ciao comunque Fabio, grazie comunque ancora per le quattro chiacchiere che abbiamo fatto e scusa se mi sono permesso di dirti come funziona la CB, o meglio l'installazione dell'antenna. È un diritto sacrosanto che nessuna legge te lo nega, per cui tu dovevi andare diretto, senza chiedere il permesso a nessuno. Va bene, ciao ancora Fabio, alle prossime, sperando di riascoltarci presto, in condizioni ottime, ciao. Ok, ciao Giulio, ti do 3 bip per salutarti. C'è più nessuno? Vabbè, collo. Vabbè, Lu, dove sei? Dalla tua parte. Ehi, nonostante ciò il segnale è ottimo. Fammelo guardare bene. Mi pare che sei 9 o sopra il 9, 9,5. Ehi, c'era anche Giulio, ma ha squillato il telefono, mi sono dovuto assentare. KK. Porca miseria, ma è normale che non ci sia QRM, c'è una calma piazza. Bene, Luca, se mi ascolti, dai, io mi sto organizzando per fare qualcosa in cucina. A più tardi, nel caso, anche se ci sta ascoltando. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, non c'è nessuno? No, fino a un minuto fa c'era Fabio Master, che però doveva chiudere, è entrato anche Giulio. E starà facendo qualcosa anche lui, io lo ascolto, ok? Io mi organizzo in cucina, poi se non voglia entro più tardi, se non voglia, che è sempre caldo, cioè vado a fare una spesuccia, torno tutto accaldato, mi devo denudare a casa, ui. Non ti faccio sentire i peli? Sentivo qualcosa, io non ti muovevo più, cazzo. Ma cosa fa sentire i peli, quello, bubu? È Natalino, caro. Siamo Natalino. Oh, mi devo comprare una stazione saldante. Dove la posso trovare e quanto costa? Una caldaia calda. Sì, anche che abbia anche quello. Ah, è 2B. Ho 80, lo mando la truppi. K. Una curiosità, Luca. Ma quelle che trovi su eBay, che ne so, sono marche conosciute che ti forniscono i ricambi se ti si rompe un componente o è roba usa e getta? Queste stazioni saldanti che dici, no, da eBay, sono marche conosciute? Cioè se ti si rompe un componente, una parte della stazione, si trova nei ricambi o è roba usa e getta? Beh, a me ce l'ho con il saldatore, capito? Era un errore, non so, infatti adesso con due stagioni l'ho smonto, voglio vedere una cosa. E avevo cambiato due resistenze, ma ripeto, a funzionare. Adesso mi sto facendo un po' terra. No, sbaglio, che per te? Lo vediamo un po'. Marco, preoccupato. Se vuoi ancora a seghia, lo paghi. Siamo sempre lì, dai. Anche la Lafayette faceva stazioni saldanti ad aria calda, Natalì. Poi vabbè, Marcucci ha chiuso, quindi tu il marchio Lafayette, non c'hai più assistenza, non c'hai nulla. Vabbè, la mia è un po' che manca, ma si è fatto qualche anno, mi ha fatto l'augurio. Eia. Poi ci vuole una pentola, mamma mia, la mano ferma, non è roba per me. Io posso saldarmi un PL, ecco. E boh, un microfono, dai, i poli di un microfono, però non vado oltre perché mi saltano i nervi, proprio mi trema la mano. Natalì. Eia. E Tandu. Tandu, siamo qua. Insomma, alla fine non ci hanno abbandonato, hanno detto che quando è l'11, no, il 18 maggio, l'11 non cambierà nulla alla fine. Solo per necessità si esce ancora. in paranoia. Vabbè, vedo già in vendita nei market i prodotti solari, no, l'olio, la protezione solare, ma mi pare che a Spotter che la mettono, perché a mare non ne vedremo. Vabbè, pazienza, mi abbronzo col forno a microonde. Infatti, un attimo di Querix. E intanto sto chiudendo che devo cucinare. Dai, ciao a tutti, Querix esecutivo, Querix esecutivo. Ciao. Tanto Marco, non vedi prendo una decisione? Come Luca? Ho detto che non vedi prendo una decisione. Ma tu essendo indeciso, la vuoi fare una cosa? Ti prendi il 3009 e ti prendi l'altro. Te li porti a casa, te li usi uno, due, tre giorni, quanto vuoi tu. E poi decidi. Perché sai cos'è lui? Tu c'hai quell'apparecchio lì, no, che è molto simile al 3000, cioè tu stai passando da cos'è il Tornado al 3000, praticamente è lo stesso apparato, non stai cambiando nulla in realtà, e a quei livelli è come tenersi il Tornado o quello che è, stessa scheda, stessi comandi, stesso tutto, stessi canali, stessi modi di emissione, tutto uguale. Cioè, a un certo punto, comunque sono sempre baracchini comuni, cioè baracchini comuni, non è roba ultra potente come potrebbe essere, come era l'Omega Force o il Galaxy, capito? Sono baracchini comuni, sì, li puoi fare tante modifiche, però vanno fatte da chi le sa fare. Per esempio al 3009 li puoi fare i picchi della modulazione, cioè avere un sacco di picchi, ma picchi allucinanti, modulazione senza che distorca, però va saputo fare. Va fatto fare da chi di dovere, capito lui? Sì, ma non ho capito. Il compito lo tieni 3 giorni, ognuno me lo compete, allora 3 giorni poi me lo vendo, non ho capito prima, cosa hai detto? Lui però abbassa un po' la radio, quello che è la TV. Ho detto, se sei indeciso, ti presto il 3009 più l'altro, te lo usi, te lo provi uno, due, tre giorni, una settimana, poi quando sei deciso, quello che ti piace di più, ti compri dal negozio, no? Sì, però sei compito di marina. Ma no, però se vuoi dire, io voglio che volevo attaccare il 3009 più 4, capito? Se ti interessa un apparecchio dove puoi mettere l'MB più 4, allora ti dico una cosa, sia il 3009 sia il 6009 hanno lo stesso attacco microfonico, 4 poli, stessa pisenatura. Nel 6009 però gli devi togliere il cavo di ricezione, cioè devi disaldare il cavetto della ricezione, che comunque non è necessario neanche in questo apparato, perché qua non hai bisogno di ricezione, qua togli il microfono e ricevi lo stesso, capito? Io perché l'ho scelto quello lì apposta? Perché potevo usare il 3009, l'M93 lo potevo usare qua, lo posso usare sul 5005, capito? È versatile. Ma scusa un attimino Marco, tu perché non lo usi il 3009? Aspetta che alzo il volume, porca miseria, ripetilo. Ho detto, tu perché non lo usi il 3009? Punto di domanda. Allora, diciamo, di estetica è quello che mi piace di più, con il display blu poi è bello, poi è omologato questo, cioè c'è il 40 canale 4 watt, esce discretamente in AM, cioè esce normale in AM, la voce che senti qua è la stessa che senti in verticale, e quella è una cosa che conta molto. Capito? Quindi estetica, modulazione soprattutto. A me non mi interessa riuscire fortissimo, metallico, effetti eco, capito? A me interessa uscire bene, che sia capibile, senza però sordare nulla. Ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Adesso vediamo, vediamo. Stavo controllato in questi giorni se c'era qualche 3009. A quel prezzo là c'è 190 mi viene. Quello dalla Spagna, sì. 189 più la spedizione. Poi ne è sorto un altro, però ne vuole un bel di spedizione. O ne oltre uno, cioè costava poco l'apparato, però voleva 35 euro di spedizione, ma non ti nandi. Però dicevo che tu stai passando da un baracchino, cioè se prendi il 3009 è troppo simile al tornado, mi pochi barauli. Chi altri c'è qua? Avanti. Due secondi, ma dove fanno un po' d'acqua? Ehi, ehi, chi c'è qua? Ora non ci sia nessuno. A dove dai, eh? Ah? A dove dai, eh? Non ho capito. Niente, è una super cazzola, dai. Guarda, ma aspetta, allora. Gianluca è passato. Aspetta, vediamo un po' che c'è un problema. Comunque, in seguito si possono fare tante cose con questo apparecchio. Si può far uscire fortissimo, tutto quello che vuoi. Però le modifiche, ripeto, vanno fatte da chi di dovere, e chi di dovere si fa pagare bene, a meno che non sia amico. Chi è l'altro? Natalino, su tu sei rientrato? Ah, e anche un'altra cosa, Luca, a me piace la ricezione di questo, la timbrica di ricezione del 3009, che è leggermente più acuta, in toni un po' più alti, quindi se c'è uno che esce cupo, qua lo sento un po' meglio rispetto ad altri baracchini. Sto venuta. C'è un 3009, vecchia generazione, 143, 145, 170 euro lo sta dando, però di vecchia versione nero. Cioè lo sta dando al prezzo del nuovo praticamente. Io non capisco la logica dei venditori. Sì, trovo la cifra. Poi ce n'è uno, lo sta vendendo quello, il nuovo modello come il tuo, 288 euro. Ehi, a quello scrivili un messaggio di attaccarselo a culo. È davvero questo. Ok, intanto. E più poco, è costa questo qua? Forse l'hai visto anche tu. 159 più 35 rispetto. 195 euro mi viene a attaccare. Adesso do un'occhiata ai prezzi. Sì, siamo sempre lì comunque. Che cosa? Ehi, nulla, nulla, il 3009, vabbè, di 10 passaggi ne capisci 2, dai, ma sto uscendo bene. Ma non ti capisco cosa è, insomma sei mancato per un po' di secondi, non capivo cosa intendevi dire. Ho detto l'unica è 159 più 35, fanno 160, 195 euro, 194 per essere precisi. Eia, però caspita, dalla Spagna, cioè ti abbassa il prezzo dell'apparato ma ti chiede 35 di spedizione. Oh, vabbè, l'altro siamo lì, 189 più 18. Non saprei, poi vanno tutti allineati, se li vuoi perfetti vanno tutti fatti allineare perché sono porchedini come escono dalla fabbrica, capito? Hanno allineamenti molto molto grossolani. E poi ricordate il 3009, man mano che scalda tende a scivolare in frequenza, poi quando è caldo si stabilizza. Però credo che anche molti altri apparati siano così, vedrai. Vabbè Lu, dai, devo cucinare, devo andare per forza. Ciao Lu, sentiamo. Ok, dai, sentiamo più tardi, vai, ciao. Tricche e tracche. E ballacche. Deve essere morto quello, tricche e ballacche, non ho più visto in televisione. Che è? È un guerriello. Che è la radio? A me accoppi. Sì, segnale off. Sì, vabbè, segnale è quello lì sempre. La radio è buona. Radio Kimbe, forte e chiasso. Dove sei? La Britella? Ah, claro, la Britella, sì. Eia, la Britella. Sto facendo la barba. Sistemata, cioè sono seduto un po' qua. Poi non so cosa devo fare, non so. E Marco non c'è. Cosa, cara? Sto parlando con 25, cosa? Ho detto Marco non c'è. E Marco è invogliato oggi. Oh, io devo andare da Gianni K2, ma non è invogliato a sé. C'ho qualche cosa a fare, vado domani mattina che mi devo prendere una radio vintage base. Bene, bene, alla grande. Ma cosa fa? Perché non cambia i canali, gracchia. Sì, che buona modulazione. No, non la mette il CRC che le sfrutta lo spray per i contatti. Ma i quarti tutti ci sono già. Sì, già mi raggio io, quello importante è che funzioni già. Cosa ti stavo dicendo? Il Mickey Gain ce l'ha, no? Sì. Già va bene. Ascolta, l'attacco è a 4, quindi l'MB più 4 ce lo posso mettere, o l'MB più 5. È un bel forte esce. Va bene, esce un bel forte. Ascolta, e l'attacco, attento, perché così non sai cambiarlo. L'attacco di quello è uguale all'Alan 48, quindi puoi attaccare direttamente quello lì all'Alan 48. No, oh, microfono tieni tu, anche l'Alan 48 se stacchi il microfono si sente. Quindi io c'ho il microfono e tu ti tieni il tuo, ok? Non c'è problema Gianni, assolutamente. Tu quando ti porto il 48 li attacchi, quello lì sta funzionando, perché anche il 48 se stacchi il microfono non si sente. Tutto c'ha e tanto, se fai sta fai. E comunque le do una spruzzata di l'apro, le do una spruzzata di spray per contatti, già ce l'ho. Ascolta, a 12 va o a 2.20 già? Va bene. Sei un grande, no già, domani mattina vengo, porto il cane presto, poi ti chiamo e salgo così ci prendiamo il caffè a casa, ok già, non ti preoccupare, non toccare niente, prepara domani mattina dopo che porto il cane ti chiamo, capito, salgo e mi prendo il caffè e ti porto il 48 e mi porto giù quella, dai, non ti preoccupare. Va bene, già mi arrangio io per il commutatore, no, non mi interessa intanto già, una radio io devo usare qua nel canale 10, qualche altro canale, poi se mi serve già c'ho le altre, è giusto per avere un base, perché poi me lo porto in ufficio, capito, che metto una multibanda e lo tengo lì, a fare due chiacchiere quando sono al lavoro, perché adesso poi dopo il 18 maggio faccio mattina e sera, capito, e quindi voglio magari ascoltare, a fare due chiacchiere, capito? Tanto sono in città, sono in Viale San Francesco, quindi no, non ci sono problemi, mi serve per quello, per non avere alimentatori, mettere balle, lo attacco alla 220 e lui deve funzionare. No, arriva bene, non ti preoccupare. No, quel 48 esce molto bene con l'MB più 5, almeno lo metti lì a Claudio, omologato, e usa quello, è 40 canali. E va benissimo, io non lo attacco già perché sono in città e mi ammazzano di splatter, non lo posso usare, se no guarda è eccezionale quel baracchino, funziona molto molto bene, te ne accorgerai, c'è una bella ricezione, una bella trasmissione, c'ha 8 watt da quella radio, non da 3 watt, da 8 watt, provati col wattimetro, non so perché così, io l'avevo comprata così, anzi no, la verità me l'ha fatta sollevare Gigi a 8 watt, capito? Lasci stare così ed è perfetto, non ha bisogno di niente e arriva benissimo, poi domani mattina mi la provi. Va bene, vediamo chi c'è qua, Marco ci sei? Ci sono io, triste. Poi ciao Eugè, lo senti a Capri? Sì, piccolino ma già lo sento. Perché sei triste? Cosa c'è Pitbull? Stavo ascoltando. Eugè, ne ho due, capito? Ti giuro che non li posso attaccare, infatti sto facendomi un cambio con Gianni, e mi dà un base, capito, un base, così lo metto sopra il DAC e lo posso usare, perché l'Alan 48 in città oggi non si può operare, è un baracchino bellissimo da macchina, però vedi lui che è distante, che non ha gente in paese eccetera, lo può usare tranquillamente. Io qua in città cosa usi? C'è un battimento da latte veloce quando lo uso oggi, quante volte a trattarlo? Mi dispiace perché è nuovo, però mi tengo un altro e uno loro ha il figlio di Gianni, così lo usa e c'è un bel baracchino per fare due corse, ho capito. Va bene, l'ho perso, non si può sempre vincere. Buonasera a tutti, là, va bene, la vita continua. Dai, buonasera, non so se lui mi sente, boh. Lo senti Eugenio Gianni? Non è un microfono originale, c'è della Midland, ma stai scherzando? Ma io ti, secondo te ti do una radio senza microfono Gianni, ma non scherzando, io ti do il microfono, il baracchino, la staffa, il cavo di alimentazione, io ti do tutto, e se è completo cosa te lo devo dare senza microfono? I c'è un microfono originale, c'è allora. L'ho avuto, sono state 25B e 35B ho avuto anche. Radio bellissime, ho avuto il Benco 46D, ne ho avuto valvolare in quella generazione io, e quando ero portatore a casa di mia madre ne ho avuto. Le Constat ne ho avuto due, il Tenco 46T, poi ho avuto il Persipson, il Simba, tutti base, è da lì che mi piacevano in base, Poi quando sono arrivato a Sassi ho iniziato ad usare queste radio e quindi continuo a usare queste radio, dai, non c'è problema. Avanti Marco, ci sei, Luca? Dile se fa cambio, ve le do l'Uranus, mi dà il 48. Non penso. Hai sentito Eugenio? Ha detto che tira l'Uranus. L'Uranus è della, è tipo il, come si chiama? Vabbè, lo volevo dire in fretta. Comunque ha detto se che tira l'Uranus le dai il 48. Aspetta Gianni un attimo che sono al telefono, eh. Attenzione Gianni Capri, mi senti? Sì, sì, uguale. Basso, però ti tiro fuori, dai, va bene, va bene. Dai, dai, dai, fa niente, va. Cioè, non sarà il solo 48 in giro, dai. Ah, io mi voglio disfare del Galaxy Uranus, perché mi serve un 48 per metterlo nel camper. Ho detto che mi voglio disfare dell'Uranus, del Galaxy Uranus, per prendermi un baracchino 40 canali, per prendermi un 48 per metterlo nel camper. Ega, fa niente, là. Non fa niente, lo venderò. Ega, sì. Ah, ho capito. Magari mi fa il servizio taxi al porto. Lo so, non riusciamo più da questa situazione. Allora io ho avuto anche mio cugino che ha lavorato con Baraghini. Si chiama Tore, di Florinas. E a Roger, di Florinas, si chiama Tore. Sì, sì, lo so il cognome. Adesso è con l'ATP di Sassari. Io sto uscendo liscio, Sto uscendo con i fatti del baracchino normale, non ho altro. Ea, ho capito. E anche io ti sto perdendo che mi sta salendo il QRM. Sto perdendo, a tratti ti ripesco, a tratti sparisci. Con quattro ore un passaggio, Bobo. Ea, ti ho beccato adesso, dai. Già ci sentiamo, tempi migliori ci sentiamo, dai Capri. Buonasera giù. Ciao Eugenio, salutoni, ben ascoltato. Gianni quando parla non smette mai di parlare, vuole qualche lunga passaggio. Ciao Gianni! Ok, già ti sento a malapena, basso basso, comunque vabbè, già ho capito quello che hai detto. No, Eugenio, tutto bene? Cazzo, ma fai un disotto. È incredibile, non si può fare da un bici. Va bene, già, d'accordo. Aumenta, metti un paio di chilometri di pau. Così almeno arrivi meglio qua. Ciao Claudio, ti prendi. Ciao Giulio, buonasera, non va tutti dai però al telefono. Ok, va bene, stavo organizzando una cosa per lunedì. Va bene, sì Gianni, arrivi bene qua, dai, lo sai, da me arrivi, no, ti posso dire di no, sei fortissimo, mi serve 18. Il segnale è anche buono, è 9P10, va bene, Giulio non ti sente perché è più giù, noi siamo vicini. Va bene, Eugenio ancora c'è? Sì, sono qua. Ah io, farei da Pitbull, non sei andato a lavorare? Cosa vuoi? Non mi parlare più. Cosa te ne fai? Cosa te ne fai? Ce l'hai tu le belle radio, che? No, sì che nessuno ci sta poco fa, ero apre di Barcellona, fa caldare. Per carità signori, non vi dico niente, va. Ma non detto arrivita a me. Arrivita. Poi, cosa ha detto? Ne sbarcato oggi, sembriamo. Oggi sembravamo una giornata estate. Una giornata estate. Tutti i turisti scendendo dalla Spagna. Cosa detta? Oi. Per forza non usciamo più a questa situazione. Che schifo, cazzo, che schifo. Che che schifo, veramente che schifo. Dobbiamo ancora aspettare, così veramente non ne togliamo piedi. Avanti giù. Ok, a poter affondare la nave che andiamo in alto mare, così al marco noi la rivideremo, che la carità è che è razza di mentalità che hanno, ma quando mai la pietra devi permettere questi sbarchi così, e questa imprudenza pura, vedrai quanti contagi ci saranno adesso qua in Sardegna. La carità è che vergogna. E allora a tutti voi, disfare del Luganus per prendere un 48 o Eugene. Io avrei detto che non ho mai ciabatto una cosa del genere. Tu dici, puoi metterlo in macchina. Perché Luganus non lo puoi mettere in macchina, che è un ultimo baracchino. Vai Eugene. No, ma viene male perché lì, essendo a sintonia continua al frequenzimetro, capito? Non hai i canali al frequenzimetro e viene male. E vabbè, già è ancora qua. Viene male. Il mare, per modo di dire, io mi sento autonomo perché è uguale della somma il campo mio. Per cui, vabbè, comunque, tu hai le tue idee, va bene così. Avanti, Claudio. Ma glielo già detto, infatti. Non serve a niente fare quelle cose. Io sto prendendo un base che mi serve per mettermi in ufficio, capito? Però quella è una bella radio, io era la mia quella, lo sai, no? La tua Massimiliano, poi Massimiliano ha passato a te. Una bellissima radio, viaggia molto bene, non c'è problema. Vabbè, comunque, vediamo, già si trovano questi alla 48 a pochi soldi, non c'è problema. Solo che bisogna trovarlo a pochi soldi. E secondo la Garbidi minimo 80-100 euro domani. Perché sono ancora quotati, cazzo nuovo costa 200 euro alla 48, ma li vendo, io avevo pagato 160 euro. Romanti Capri 2, cambio, e così costavano. Se mi sto dicendo che ci è andato Roberto Quadrato a chiedere, 200 euro ne avevo per l'alla 48, e 300 euro per un 8001, ma non tiro bene, 300 euro lo pareggio l'HF. Allucinante, una farmacia è diventata sciolucco. Vai Giulio. Quello lì è fuori di testa, è cosa bisogna dire, quello è fuori di testa. Poi, per carità, ma è tutto, qualsiasi cosa che compri è cosa al doppio degli attributi. Vabbè, comunque se lo chiede, meglio Baedo, meglio per chi lo compra quel pezzo. Io non credo che ci siano molte persone disposte a pagare un 8001 300 euro, poi da capisci. Va bene, dai, comunque. Avanti, Eugì. Oh, vabbè, questo qua, mi sto guardando, sto scondendo la fattura qua. E questo qua, con il libretto delle istruzioni, questo apparato qua l'ho comprato nuovo al negozio. L'ho pagato esattamente 186 euro. Ma non vuoi bonichi su baracchino con la 48, no? Oggi? Vabbè, no, non lo so, io dico tutti che ho un bella... Io ho preso, già lo sai benissimo, ho preso una bruciatura alla 48, ho detto, boh, basta. Però tutti dicono che è un signor baracchino, si vede, ci voglio riprovare, dai. Ma è un signor baracchino per la macchina, dammi retta. È un signor baracchino per la macchina, e già raggiungi il commentiere a 32. È ancora tutto aperto da quel mio amico, non ha trovato mai pezzi, nulla. È tutto disintegrato, tutto magnato la regione, chi dretto, per carità. È un bellissimo baracchino, ma va bene per la macchina, cioè, credimi. Io, guarda, lo attacco, sento anche i camionisti che stanno scendendo la scala di Ciocca, sulla 131, mi fanno battimento. Capito, è un baracchino da casa a casa, non si butti lì, non si può attaccare a casa. Mi dì la Gianni quando lo attacca, lo stacca subito e attacca il magno. E quello Gianni è bello, modificato, ha pagato un sacco di soldi. Massimiliano, perché si è disfatto degli Alan 48? Perché sono bellissimi i baracchini, però prendono troppi colpi, troppo. Il mio è una cosa impressionante, capite? Poi ogni un altro, però ce l'ho in concessione, quindi non lo do. E quindi questo lo do a Gianni, e Gianni mi dà un'altra radio. si può usare il baracchino, la lampada l'ha portato a casa. È un casino. Vai, capi. Ok, già. Vabbè, dai, comunque. No, ma lì, ad esempio, in paese si può anche usare il 48 o qua, penso che si possa usare, dove abita Gianni, il 48 si può anche usare, perché non credo che ci siano molte stazioni che lo sfratterebbero, non credo, qui a Sassa è diverso il discorso. Sì, ma indubbiamente, come hai detto tu, è un baracchino molto buono per la macchina, perché esce bene, il radio esce molto bene il 48, non ci sono dubbi, esce anche forte. Però il discorso degli splatter, ma si sa, come succede, qualcuno una volta si diceva, se gli splatter ce li ha che se li tiene. Ma non è così, perché quando siamo vicini invece è bello che ci sia un baracchino che sia filtrato in maniera decente e non ti splatteri tutti i canali. Se che ti splattera uno o due canali, vabbè, non è un problema, perché intanto poi ci spostiamo, ma se ti splattera tutti i canali poi è un problema veramente, allora non si può usare veramente. È così, avanti Claudio. Sì, ma vuole splatterare come fecero tu. Alla 48 mi si spegne, non c'ho QRM, hai capito? Se c'è altra gente parlando, mi fa proprio battimento, non sono splatter. Io c'ho l'Elbex, che non sento nessuno. Antonello l'altro giorno era sul 15, con Fabio ero sul 10, non lo sento. Molto selettivo, capito? L'Urano sulla stessa cosa, tanti altri baracchini, ma l'Alan 48 è micidiale. No, Gianni non ne ha problemi da muro, se hai rasura, cosa? C'è solo Giancarlo lì che è un radioamatore, cosa? Non gliene frega niente a lui, ma io qua non lo posso usare perché, Giulio, mi si spegne proprio, non sento niente, non c'ho QRM, battimento in tutti i canali, non splatter, battimento proprio, cioè non senti nessuno, nulla, zero. Ecco perché, capito? Là, per non usarlo, siccome a Claudio le piace, al figlio di Gianni, lo do a lui e se lo vuole, se lo usa, nuovo, e io mi prendo un altro baracchino, capito? Non me ne affrutti nulla, tutto qua. Capito, mia Eugenia? Tu potresti lo stesso averlo il 48 a casa, perché sei anche fuori dalla città, non penso che ricevi splatter, però sono convinto che se parla a Porto Torres o qualcuno lo senti, perché guarda, tu immaginati, mi ricordo sempre le parole di Gigi Vulcano, lui ce l'aveva modificato, lui c'era un Alan 48, normale, sentiva a me di splatter ottava, fatti un conto. Addirittura. Te lo procurerò uno, intanto a me mi serve non per casa, che ho detto, a me mi serve per il camper. Ma il camper non avevi messo quello che avevi comprato? No, nel furgone avevo questo che sto usando io adesso. Quello che sto usando adesso. E nel camper avevo quello che mi ha dato Marco, te lo ricordi quello piccolino che. Però entra troppo. Quello è troppo elettronico. Entra troppo il rumore del motore, un macello. Ah, tu vuoi più uno da battaglia analogico qui e là, e già si trova, dai, vediamo un po' di trovarlo qualcosa, lo metti lì, giusto per il campo, non te ne affrutti nulla, già va bene, già si può trovare uno così, dai, non ti preoccupare, vediamo di darti una mano, guarda. Giulio c'ha una KB23, tu immagina io con la KB23 e il tunnel più 3 da tavolo, non sentivo manco Antonello se si metteva nel canale adiacente, stiamo parlando di una radio del 1970, tu immagini come erano fatte le radio prima, è cambiato tutto, anche quest'Elbex è selettivo al massimo, io non sento niente, non prendo colpi, niente, come il 440. Sono belli da usare, ma se mi muovo la RAN 48, si chiude la rasura, si spegne, proprio si annienta, è come che sia muto, perché non sono splatter, proprio ti toglie tutta la ricezione, chiunque parli, che sia dentro Sassari, che sia vicino a Sassari, dalla Teroce, tutti mi crepano con quel baracchino, capito? E quindi è per quello che non lo uso. Vai Capri 2. Prego, ma ricordo te che c'è sta Capri 2. Questa è la radio che devo prendere io domani mattina. Cavaga. È un Polmar di base. La base. Questo me lo dà a me domani. Va bene, facci sentire il microfono intanto nel frattempo. Ciao Gianni, buonasera, ben entrato. Vai Giulio. Ok, ciao Gianni, ben entrato. Sì, io ce l'ho avuto il Polma, 80 canali erano. Sì, 80 canali, me lo ricordo benissimo. Poi l'avevo data e non mi ricordo nemmeno chi. L'avevo regalata a qualcuno. A chi fosse, aspetta, chi era? No, non mi ricordo, non mi ricordo, vabbè, non fa niente. Sì, ma è così, ricordati un po', che se tu hai il problema, Eugenio, se tu hai il problema del rumore del motore, figurati con il 48 che cosa senti allora. Allora se vedi anche i pistoni muoversi. Vai Eugenio. Addirittura. Dici che non è questione dell'apparato elettronico. Buonasera. Ciao già, buonasera. Vede sia la 48 modificato. Sì, oggi sono stata a casa. PC nuovo in scatola. Subito l'ho dato, perché manca in macchina va bene, che pigliavo colpi dall'altro mondo da tutti. Ma non è vero, in macchina va benissimo, perché io ce l'avevo tanto tempo e a questo qua perlomeno non li piglia colpi in macchina, in casa sì. Li piglia colpi in macchina? Sì, ma bisognava in via Giovanni Pasco, le sentivo a Gio Maria, in tutti i canali. Sì, ma bisognava ancora di più, mi basia pure l'abbattimento, l'ho solo dato. Allora Dani, vai così, è un barattino che prende tutti i colpi. No, ma il problema di Eugenio, lui focante adesso, c'è uno che prende proprio il rumore del motore, figurati il 48 che cosa prende allora. Se Eugenio, vedi i pistoni salendo e scendendo qui, sei un gamper, non ho dubbi. Va bene dai, avanti Eugenio. Vediamo un po' se si è messo questo microfono Gianni. Gianni di Muro, sono avanti. Va bene, Radio 5 non è amplificata ma è chiara. Va bene, già va bene, ma io intanto ho le mie BP5 quindi non ne ho problemi. Va bene, va bene. Anche io, è l'unica volta che ti sento bene già. Lo stavo dicendo brutto poco fa. L'unica volta che sento un amico, mi sentivo bene col 4.40 e adesso. Ho fatto una gaffa. No. Aspetta che memoria che hai, ce l'ho avuta voglia. Con microfono autocostruito, quello in legno, che avevo mai in quegli anni lì, l'avevo comprato da in via Principessa Maria, da Costantino Fara, mi sembra che si chiamasse quell'uomo lì. Sì, va bene. Ma io come ti arrivo io a te Gianni? Così per fare la comparazione con il tuo segnale, come ti arrivo io? Quanto hai detto Gianni? Non ho capito quanto mi ha dato. Santiago 7 arrivi a Gianni Capri 2 e Giulia, Santiago 7 Radio 4, abbastanza bene, sì ti ascolto bene, a me non mi interessa tanto, io ho altri microfoni quindi le metto gli altri microfoni e mi serve un 220, un 220 più piccolo del DAC, perché se porto il DAC in ufficio vivo mezza scrivania.